Tanti sanno che la Bibbia è un libro fondamentale per il cristiano, ma pochi la leggono. Molti dicono che i salmi sono una preghiera che dura da 2000 anni e più, perché sono prima di Gesù Cristo, ma pochi li conoscono e pochi li gustano. Per questo io vorrei oggi sottoporvi il Salmo 118 dai versetti 17 e 24, dicendovi un po' come l'ho gustato io, augurandomi che possiate gustarlo anche voi. Anzitutto comincia con un ritornello: nel fare il tuo volere è tutta la mia gioia. Io ho scelto di fare il sacerdote, dunque di fare della mia vita tutto il mio tempo, tutte le mie forze, dedicarle a Dio e alla Sua parola. E dunque un po' di tempo ce l'ho. E anche oggi mi gustavo, davanti al tabernacolo, questo salmo: nel fare il tuo volere è tutta la mia gioia. Queste parole le dicevo a Gesù che avevo davanti a me nel tabernacolo e mi riempivano il cuore di gioia. Nel fare il tuo volere è tutta la mia gioia. E mi sono soffermato qualche minuto a gustarmi, a farmi rotolare in bocca come una caramella da succhiare questa parola: nel fare il tuo volere è la mia gioia, mi fa contento. Poi ho continuato a leggere il Salmo con un abiro, è un campo di battaglia questo mio libretto, con le sottolineature, con le frecce, con i richiami. Ho cominciato a sottolineare i verbi, come suggerisco anche a voi. I verbi fatti da Dio e i verbi che faccio io. Sii benevolo, un verbo che fa Dio, e io avrò la vita. Sii benevolo, Signore, la benevolenza, e io sarò contento. Quanta gente triste c'è in giro, quanta gente depressa, quanta gente arrabbiata, delusa, sfiduciata. Sii benevolo con me, Signore, e io avrò la gioia. Apri i miei occhi, perché io consideri le meraviglie della tua legge, le meraviglie della tua parola. Ma la gente non ha tempo di sottolineare e di gustare la parola di Dio. Poi una frase che mi faceva riflettere molto: io sono un forestiero qui sulla terra, ma pensa un po', io sono un immigrato, sono uno che sono qui di passaggio. Sono un forestiero sulla terra. Noi non siamo mica convinti di questo, noi è come se fossimo eterni. E invece noi siamo di passaggio, amici. Ma queste cose come fanno a entrare dentro nella nostra anima se tu non ti fermi a masticarle, a gustarle? Sono un forestiero, Signore. Com'è chiaro, eh? Io mi consumo, i verbi, nel desiderio di te. Io mi consumo nel desiderio dei tuoi giudizi. Ma è così, amici? O io consumo il mio tempo davanti alla televisione, consumo il mio tempo in chiacchiere. E infine, non sto a leggervelo tutto perché vorrei che lo leggeste voi, che impareste voi, la Bibbia ce l'avete, il messalino quotidiano ce l'avete con la birra da sottolineare, conclude dicendo: il tuo servo medita i tuoi decreti. E questo è il segreto, amici, la meditazione, cioè la lettura e la riflessione, il meditare. Solo se noi meditiamo riusciamo a cogliere la bellezza di questo. Meditare vuol dire fermarsi, porre l'attenzione e far silenzio. Un po' come se tu vuoi vedere un panorama in montagna, sulle Dolomiti o al mare, un tramonto. Ti fermi, smetti di chiacchierare, ti concentri, guardi e pensi. E alla fine ti verrà da dire: che bello, che bello. Il tuo servo medita i tuoi decreti. Ma non è finita. I tuoi insegnamenti sono la mia delizia, allora la mia gioia, la mia delizia, essi sono i miei consiglieri. Se tu stai a meditare la parola di Dio, la parola di Dio ti illumina, ti fa capire, ti consiglia. È l'augurio che vi faccio, amici, di scoprire i salmi e di meditarli voi. Io ho voluto darvi un piccolo assaggio, ma imparate a cucinarli voi. Imparate a cucinarli secondo il vostro gusto e a nutrirvene.